Buonasera, questa sera presentazione del libro Flash di Federico Filippo Fagotto, presentazione di un libro Benefit Università Popolare. Sì, ma non ti sentiamo però, Elena. No. Alzo la voce. Bravo. Ma tanto cosa, mica mi amplifica. Non è che dopo sussurrano nel microfono. Esatto. Questa sera a Cateno ci... No, non è amplificato. Ah, ok. No, non è amplificato. Questa sera a Cateno dialoga con Federico, parleranno del libro Flash, edito da Rossini Editore, e passo la parola a Cateno. Perfetto. Federico! Allora, come sempre diceva Elena, è un evento, diciamo, nel solco di quegli eventi appunto organizzati a benefit dell'Università Popolare. Seguirà, dopo questa presentazione, seguirà una cena a prezzi popolari, quindi vi invitiamo a restare anche dopo la presentazione. Bene, allora cominciamo un po' a parlare del libro che abbiamo stasera, un libro di Federico Filippo Fagotto, che molti di voi conosceranno, hanno conosciuto come me per esempio alla Corte dei Miracoli, perché in qualità di direttore artistico organizza tutta una serie di eventi alla Corte dei Miracoli, che viene presentato come teatro, ma è molto più di un teatro, nel senso che non fa solo rappresentazioni teatrali, ma molto spesso anche eventi di musica, reading di poesie, musica ad ampio spettro, diciamo così, no? Dal jazz alla classica, a volte anche cantautorale, anche presentazione di libri, conferenze, incontri sul cinema, insomma, settimanalmente, ogni giorno ci sono degli eventi che vi consiglio anche di andare a spulciare, trovate anche sui social, Corte dei Miracoli, sono degli eventi molto molto interessanti. E appunto, oltre a questo, Federico, leggiamo anche dalla breve nota biografica che c'è nella quarta di copertina, è un laureato in filosofia, ha collaborato con la cattedra di estetica, ha fatto parte addirittura della nazionale di bridge italiana, poi nel corso della presentazione. Basta con il nerdismo. No, magari se ce ne vuoi parlare dopo, magari possiamo dire due parole anche su questo. E adesso abbiamo appunto l'opportunità di parlare di questo romanzo che si chiama Flash, con una A e una E che quasi fanno dittongo, si confondono tra loro, perché indica appunto flash inteso come carne e flash inteso proprio come il flash della fotografia. La fotografia è uno dei fili conduttori appunto di questo romanzo. Noi diciamo romanzo, anche qui sembra quasi riduttivo dire romanzo, perché più propriamente potremmo dire che sono almeno tre romanzi in uno, ecco. Perché lungo le pagine di questo scritto, che è anche abbastanza corposo, sono circa 500 pagine, si intrecciano diverse storie che con il passare delle pagine si scoprono essere molto intrecciate tra loro, a volte anche all'insaputa dei protagonisti, che incontrano persone che avevamo già incontrato ma loro non lo sanno, poi magari non capiscono alla fine chi sono, ma anche se noi già sappiamo chi siano. Le storie fondamentali sono tre, che scandiscono appunto le tre parti di questo libro, magari poi ne approfondiremo qualcuna. La prima racconta di un venditore ambulante, diciamo, alla fiera, al mercato di Senigallia, che c'è ogni settimana appunto sui navigli, vende un po' quello che trova, e lì c'è un intreccio appunto si tratta di un come dire, viene definito seduttore nel libro, diciamo così, no? C'è uno che ha una particolare inclinazione a conoscere delle ragazze, delle donne, quasi in maniera, diciamo, brutalmente collezionistica, diciamo così, cioè nel senso che poi dopo una notte d'amore è solito scaricarle il giorno dopo. E qui si nota, o meglio, si nota anche poi leggendo anche le altre parti, che i registri stilistici del libro variano a secondo della storia narrata, no? Il linguaggio si fa un po' brutale, un po' gergale quando si narra di questo, chiamiamolo così, tra virgolette, bieco seduttore, chiamiamolo in questo modo. E una cosa che mi ha colpito, sulla quale ti sollecito, è che in questa prima parte vi è molto spesso la ricerca di una parola precisa che serve a indicare delle situazioni specifiche e che però non hanno un termine preciso in italiano che le possa indicare, no? Quindi molto spesso dici, no, questo termine in quest'altra lingua si dice, questa sensazione, questa situazione in un'altra lingua si dice in questo modo, non c'è un corrispettivo in italiano, ma quella parola di quell'altra lingua, di quell'altra cultura la identifica. Poi questo tizio, vabbè, verrà sospettato di omicidio, poi non spoileriamo troppo, no? La seconda cornice narrativa è quella di una giovane madre che viene da un paese strano, forse non noto e più, che si chiama Transnistria, che è un paese che non ha mai rinnegato l'Unione Sovietica e che ancora ritiene, ma un sogno sembra che ancora vivano, beati loro, vabbè. E che però vive in Italia, ha divorziato col marito, poi si scopre che il marito in realtà era un amico di gioventù del protagonista del primo filone narrativo, e che ha una bambina piccola che cresce più o meno da sola, no? Perché il marito, l'ex marito, si fa vedere poco. Lì vi è una bella ed efficace narrazione anche dei lavori nelle cascine dell'internat milanese, e viene scambiata per attivista nelle tematiche dell'ambientalismo e del vegetarianesimo, poi per del lavoro, per alcune cose, alla fine in virtù di un giornalista che incontra, viene mandato in Sardegna, o meglio, se va in Sardegna, scrive un diario che dovrebbe essere pubblicato, insomma anche lì c'è un epilogo abbastanza tragico, se vogliamo anche commovente in questa faccenda. L'ultimo filone narrativo è quindi... Anche qui si vede che c'è una narrazione un po' più delicata anche nel lessico, anche nel registro, rispetto a ciò che vive questa donna. C'è la forma diaristica poi a un certo punto, alla fine conclusa da una specie di articolo di giornale che riassume la vicenda di questa donna. E poi invece l'ultima parte racconta dei viaggi psichedelici di un giornalista che va in Sud America per cercare qualcosa e trova effettivamente il filo rosso che collega tutte queste esistenze, complice l'uso di sostanze stupefacenti che provocano allucinazioni e che gli fanno vedere anche delle cose che sono realmente accadute ma che lui non ha vissuto, e che gli svelano anche dei retroscena delle vite di coloro che di cui si è parlato prima nel romanzo, ma anche di altre parti storiche. Ed è un enorme affresco, tanti racconti dentro questo filo narrativo di diverse epoche storiche, anche di diverse parti del mondo. Diciamo che lascia anche abbagliati per la molteplicità di situazioni, di racconti storici, di conoscenze. Non so, mi veniva leggendo da chiedere, ma in tutti questi posti ci sei stato? Cioè, in quali di questi posti hai visto davvero? Perché alcuni si capisce che ci sei stato, li conosci anche perché ci sei stato proprio, li hai visti, no? Altri sono descritti così, in maniera così vivida, che sembra che tu davvero ci sia stato anche lì, a meno che tu non abbia girato davvero tutto il mondo. Poi magari ci dirai anche questo, no? Quali effettivamente i posti in cui sei stato e in quali no, no? E poi alla fine c'è un epilogo che serve a, diciamo, a chiudere il cerchio, a far vedere il filo conduttore. E a me questo libro ha ricordato tante cose, si vede secondo me anche la tua passione per i romanzi postmoderni. Ho assistito a una o due tue conferenze su questo tema, no? Sui romanzi postmoderni, quindi ti volevo anche chiedere questo. Sto buttando un po' di domande lì, poi magari entriamo più nel dettaglio parlandone, no? Cioè, qual è il peso della tua passione per il postmoderno in questo libro, che effettivamente è un insieme di registri, un insieme di storie, un insieme di narrazioni? E poi nella struttura complessiva mi ha ricordato due opere, una, diciamo, forse non un capolavoro, ma per qualche tempo è stata molto letta, è stato fatto anche un film, cioè Cloud Atlas, e l'altro ovviamente Il vagabondo delle stelle di Jack London, che è un libro meraviglioso perché poi alla fine il filo conduttore è la metempsicosi di questo libro, cioè un'anima che attraversa le epoche storiche, vive diverse epoche storiche con diversi punti di vista, a volte storia, diciamo così, alta, a volte storia un po' più bassa, ma che alla fine riesce a rimettere assieme i pezzi di tutto questo. Bene, quindi diciamo un po' di spunti te li ho dati, scegli tu di quale parlare, cosa approfondire, parlaci un po' di questo. Mi devo armare? Sì. Vabbè, intanto io sto in piedi perché le posizioni ex cathedra mi stanno strette e sono fuggito dall'università proprio per questo, quindi non voglio ritrovarmi incastrato. Anzi, stavo pensando al fatto che avere in mano un microfono che non amplifica la voce ti fa essere immediatamente ridicolo, che è una cosa in realtà molto bella, perché avere il microfono è uno strumento di potere, no? Tu puoi parlare con un tono di voce che gli altri non hanno e quindi li sovrasti. Non so se vi capita anche voi quando andate alle conferenze, che questo stacco si sente molto al momento delle domande. Chi fa la domanda ha il suo tono di voce normale, e il conferenziere, secondo me, sarebbe molto educato, io cerco di farlo quando tengo le conferenze, a rispondergli così. Invece il conferenziere, rispondendogli col gelato in mano, lo annichilisce. E invece avere un microfono in mano che non funziona è bellissimo. E quindi mi tolgo dal cazzo, vengo verso di voi e approfitto per chiedervi perché siete qua. Io conosco 1, 2, 3, 4. Ringrazio tantissimo Aurora e Cateno per avermi invitato qua, ringrazio tantissimo Guglielmo e Zam. Mi piace molto essere in un posto in cui per me si poteva anche continuare a giocare a calcetto col rumore in sottofondo, che c'è qualcuno che fa l'uncinetto, i ferri non riesco mai a distinguerli, che c'è un gatto che miagola, quindi alla grande. Quello che invece mi perplime, forse tu lavori qua, quindi ti tocca. Lavorare è... Ok, forse tu giochi qui lavorando o lavori giocando come noi. E voi? Che ci siete finiti? Passavi. Tu? No, mi dici perché sei qua, dai. Anch'io gioco qua. Anche tu giochi qua? Giocate in casa? Allora ragazzi, adesso mi fate gol ogni cosa che dico. Rompetemi il cazzo, proprio entrate... a Frog Splash in tutte le stronzate che posso inventarmi. E, a lei piace stare ogni volta. Hai capito dove c'è l'attenzione? Si piazza. Vuoi il microfonino anche tu? Che anche l'unica che lavora davvero qua. Nel senso che ho uno stipendio. Esatto. Okay. Vabbè, questo libro. Ovviamente abbiamo detto due cose che tolgono del tutto la voglia alle persone di leggerlo. Uno, che l'autore ha giocato a bridge, quindi non parliamo di questa cosa, per favore. E due, che il libro è di 500 pagine, e quindi la mossa truffaldina della Santelli Editori di mettere a 499 tipo gli sconti della Lidl, e poi noi diciamo 500 di meno, e definitivamente impediamo alle persone di far nascere la voglia di affrontare questa cosa. Quindi grazie ancora a Aurora e Catino invece di aver portato a termine il compito, e spero vi sia piaciuto il viaggio. In queste 500 pagine, a meno che uno non si ripeta, probabilmente lo faccio anch'io, ma nel tentativo di non farlo, chiaramente è pieno di robe. Si parla, come abbiamo detto, di reincarnazione, si parla di sesso, in modo simbolico, però anche in maniera molto cruda. Si parla di ambientalismo, si parla di animalismo in qualche modo, si parla di sostanze allucinogene, si parla tanto di viaggi, e si parla di destini incrociati, si parla di vite che si atrofizzano e entrano nel loop della coazione a ripetere, che ha bisogno ovviamente di prede, no? Noi abbiamo bisogno continuamente e vampiristicamente in molte città, metropoli, ne parlavamo prima, Londra, Milano, una scimmiotta molto Londra, me ne sono accorto adesso appena tornato. Quindi di armarci di caramelle che ogni giorno deglutiamo per arrivare fino al giorno dopo. Il protagonista della prima parte fa esattamente questo, la sua caramella sono le donne, ma potrebbe essere anche un'altra cosa. In realtà non sono solo le donne, sono anche gli oggetti che lui vende, lui fa robe vecchie. E più li dismette, più in realtà continua a riceverne, più li accumula. La storia di Fulvio, che è il primo dei tre protagonisti, è esattamente questa. Lui ha iniziato a tenere un mercatino a Senigallia per il semplice fatto che, quando sono morti i suoi genitori, si è trovato ovviamente in un cataclisma esistenziale, ha mollato quello che faceva prima, che non lo, tra l'altro, appassionava neanche troppo, gli faceva il cuoco. Molla questo lavoro e, a causa del fatto che il padre gli lascia tutta una serie di oggetti che il padre materiale aveva stipato nella sua casa, che a loro volta venivano dal nonno come dagli avi, dai bisavoli, e che per ascendenze mitteleuropee della sua famiglia erano anche sull'asburgico barocco, polveroso, fastidioso, ingombrante. Lui sente il bisogno di liberarsene, ma anche nel bisogno economico, fa, anziché gettarli nel naviglio, li vendo. E però, ecco, così entra nel loop, perché il Robbie che cosa fa? Vende, ma compra per vendere, cioè si fa attraversare dagli oggetti continuamente. E quindi il suo giochino per stare sulla ruota come in crescita è esattamente questo: farsi attraversare dagli oggetti, e lui pensa di essere lui a farlo, ma in realtà si fa attraversare dalle donne per rimanere continuamente in questa ruota panoramica in cui guarda la vita e non fa assolutamente niente. Il fatto che a un certo punto, spoiler uno spoiler, venga catapultato in una cosa più grande di lui, e ovviamente più grande del barattolo nel quale lui ha sempre vissuto, che è la scomparsa di una donna che lui aveva conosciuto per caso, una modella, la ragazza più bella che lui abbia mai conosciuto, e diciamo il falso trofeo di esserci andato a letto gli dimostra che anche toccare la cuspide delle sue false ambizioni non gli darà mai nulla. Succede qualcosa nella sua testa, che forse c'era già, ma non aveva avuto l'arena per mostrarsi come tale, e cioè vendita. Cioè si rende conto che una forza più grande di lui, in questo caso il sistema penale, che giusto per che sia, muove i suoi rotini, muove i suoi meccanismi, intanto schiaccia le persone. Sta facendo la stessa cosa con lui. Lui è come se fosse su un tapirulano immobile, sta andando verso il tritacarne e non si muove, si lascia andare fino in fondo al tunnel. Non vi dico cosa c'è in fondo al tunnel, qui serve uno spoiler. Fondamentalmente la sua mente, mentre si trova in aula di tribunale, mentre un avvocato parla al posto suo perché lo sta cercando di difendere, e la giudice donna di cui lui guarda più la fisionomia che rendersi conto che lei alla toga ed è prima un essere umano che un corpo, tutto questo non gli interessa più. Lui assiste come se fosse spettatore, come se fosse il lettore potenziale che vorrebbe avere tra le mani il mio romanzo, a tutto quello che gli capita intorno e che lo sta portando fuori dal guscio della sua piccola vita. Male o bene che sia, questa è l'unica grande novità della sua vita. Quindi tu mi hai chiesto dei viaggi. Sì. Ti posso dire che nella terza parte il protagonista, che è questo giornalista di cui tu hai parlato, che è un puro sguardo, è una persona che sente il bisogno di riparare il proprio senso di colpa e perciò mola la famiglia, va dall'altra parte del mondo, inizia a fare consumo di sostanze stupefacenti, che siano il peyote, l'ayahuasca e compagnia bella. C'è un po' anche la fiera del New Age dentro, con sorriso addosso. Si spersonalizza. Il protagonista della terza parte non ha nome. Noi sappiamo che ha un nome perché l'abbiamo già incontrato nella seconda. Nome e cognome, sappiamo chi è. Ma se uno inizia a leggere solo la terza parte, potrebbe benissimo ignorare la sua identità e fingersi il protagonista della terza parte, quello che mi piace immaginare che possa succedere a un lettore di questo libro, che chi arriva fino alla terza parte, chi arriva fino in fondo, inizia come quando ci si mette una maschera, no? Che noi abbiamo la feritoia intorno agli occhi e sentiamo di stare sbirciando il mondo da un'identità che non è la nostra, un po' come se noi fossimo dietro una parete, sapete come nei film Squallor, in cui c'è il dipinto con gli occhi bucati, noi andiamo lì a guardare. Esattamente la stessa cosa, cioè il protagonista della terza parte è per lo più sdraiato da qualche parte, che sia in Brasile, che sia in Messico, in catalessi, dopo aver fatto aver assunto qualcosa, e a occhi chiusi, e a occhi aperti da qualche parte, inizia a ripercorrere un'infinità di storie che iniziano in un punto imprecisato, in realtà molto preciso ma non dichiarato, perché a noi non ci interessa delle date, ci interessa la della storia, diciamo, all'inizio del 500. E noi, come protagonista della terza parte, dobbiamo subire un po' questo shock, cioè di esserci armati delle nostre congetture logiche fino alla seconda parte, aver tentato di comporre il mosaico. Il libro non è un giallo, ma ne emula la forma. A me piace molto la forma giallistica dei romanzi gialli, perché secondo me è il simbolo del romanzo per eccellenza. Anche quando si fa meno della trama, anche quando si scrive qualcosa che ammicca più al surrealismo o al catappo, a tutte le cose che sono state sperimentate nella letteratura del Novecento, io penso che un romanzo debba sempre inventarsi un'architettura usando il materiale che vuole. Il mio materiale è e rimane la storia, la trama. E quindi, perché no? A un certo punto mi sono detto, arrivato alla terza parte, parliamo solo di storie. Cioè, facciamo come gli Aedi, no? Che imbracciavano la lira e, a seconda di chi avevano davanti, e andando a memoria e attingendo da un repertorio che mischiava fantasia e realtà, cantavano. Cioè, la terza parte me la sono immaginata un po' come un canto, e è piaciuto anche a me molto cantarmela come se fossi stato sotto la doccia. Cioè, tra me e me. Cosa intendo dire? Le prime due parti sono state estremamente progettate. Molto progettare i romanzi. Sono state fatte col goniometro, sono state fatte sulla scacchiera. Però a un certo punto sono arrivato a un momento in cui ho detto: usciamo dalla scacchiera, andiamo nella quarta dimensione, facciamo il pensiero laterale, no? Cioè, iniziamo a raccontare. Senza sapere dove vado, io ho iniziato a raccontare. E in questo gioco, come dicevo prima, lavorare giocando, ho iniziato a rubare storie prese dalla storia. Storia con la minuscola, storia con la maiuscola, cosa vuol dire? Un po' nascosti o non, ma non sono mai nominati perché a noi non interessa. Ci sono anche grandi personaggi storici nella terza parte, c'è Thomas Hobbes, c'è Florensky, ci sono tanti personaggi, ma allo stesso livello ci sono persone sconosciute alla storia. Ci sono i facchini, ci sono i pirati, ci sono i soldati, ci sono gli animali, che esattamente come gli esseri umani possono ospitare dentro di sé, come quel gatto, un'anima che erra nel corso della storia e che noi inseguiamo come se fossimo il fantasma del fantasma. Ci sono le piante, ci sono gli alberi, ci sono i semi dell'arancia, ci sono gli oggetti, un pezzo del muro di Berlino, il cartiglio con su scritta una poesia, un barile di rum. Ci sono un sacco di cose. L'idea è, cerchiamo di stenderle come se fosse un tappeto variopinto, e per tesserlo, anziché continuare lungo il sentiero della trama, quindi orizzontale, la trama la ritroveremo solo alla fine, ormai abbiamo iniziato a fare l'arabesco della trama, mancano solo gli ultimi passaggi, eppure gli ultimi passaggi, un po' come se confondessero la matematica, sono quelli che richiedono più tempo. Perché? Perché bisogna iniziare a fare l'ordito. L'ordito che cos'è? È la texture del romanzo. Cioè, io sono abbastanza, ho la sensazione, ogni romanzo che leggo, che lo spessore che mi dà e che mi circonda, che mi ruba dentro il romanzo, non ha a che fare col contenuto del romanzo. Quindi con ciò che è stato spianato in orizzontale, che sia la trama, che sia il filologico, che sia il corso di quello che viene detto. Ma è l'ordito, cioè è il modo in cui chi l'ha scritto ha rispennellato indefesso, senza sosta, solo ed esclusivamente sulla lingua e sul linguaggio, non per fare esercizi di stile, non per formalizzare il modo in cui lui sta dicendo la cosa che potrebbe dire anche giocando, danzando, dipingendo, facendo musica, non quello, ma nella consapevolezza che lui sta lavorando di parola. Il contenuto è un pretesto, il contenuto è come il granello di sabbia attorno al quale si connessa la goccia di pioggia. Per noi è ciò che gli sta intorno che gli dà nome goccia di pioggia, no? Eppure ha bisogno di questo granello. Indipendentemente da quale sia il granello, da quale sia la storia, ciò che importa è tutto il lavoro che è stato fatto in verticale sulla lingua, sul linguaggio. Quindi, per tornare alla questione del viaggio, ti dico solo questo. Il lavoro di limare per portarli sulla stessa linea i posti in cui sono stato dai posti in cui non sono stato, in maniera tale che chi legge non senta mai come passare il dito su un pianale di legno appena piallato, non senta mai il gradino, non senta mai qui c'è stato, qui non c'è stato, poi se non ci sono riuscito perché non sono stato bravo abbastanza. È lo stesso lavoro che si fa per limare, per piallare la verità dalla fantasia. Qui c'è l'ammiraglio Nelson che è nato e morto in un giorno preciso della storia, e qui c'è una volpe che mi sono inventato e che ha rubato l'anima all'ammiraglio Nelson e l'ha portata avanti di altri 50 anni, e questa è pura fantasia. E il lavoro del romanzo è esattamente questo, cioè si lavora solo ed esclusivamente nel linguaggio, perché il linguaggio è la cosa più democratica che esiste. Nel linguaggio tutto, se viene lavorato a sufficienza, ha lo stesso diritto di cittadinanza. Questa è la cosa che mi piace molto del fatto di scrivere. Bene. Ah, sì, appunto, sì, cioè, su questo non so se posso valere come rassicurazione, cioè nel senso scorre liscio, non si vede, cioè non è realizzato quel tuo timore nel dire qui c'è stato, qui non c'è stato, no? Perché sembra davvero che tu sia stato in tantissimi posti, poi magari è anche così. Poi accennavo alla faccenda del postmoderno, no? Questo grande, cioè un nome che è un contenitore talmente enorme, vasto, non sappiamo quali siano esattamente i confini del postmoderno, ma mi è sembrato di capire che tu ne sia molto legato a questo modo di narrare così. Ecco, volevo chiederti quanta intenzione c'è quando l'hai scritto, no? Di voler fare un romanzo postmoderno. Oppure diciamo è venuto, nel senso imbevuto da quelle letture, così è risultato di fatto un romanzo postmoderno. Ma in realtà tu prima hai citato un film e un libro, Cloud Atlas e I Vagabondi delle Stelle. Mi è venuto una sorridere perché Cloud Atlas è un film di merda, non so se chi l'abbia mai visto. Ma anche il romanzo, l'ho letto che il però a me piace. No, ma anche il romanzo è leggermente meglio del film. Io non ho avuto l'ardire di leggere il romanzo, ho visto il film, l'ho visto persino al cinema. E mi è piaciuto, cioè conscio del fatto che è un film di merda, però mi è piaciuto. Sì, non so perché. Invece I Vagabondi delle Stelle è il contrario, è un romanzo importante di un grande scrittore, Jack London, che però a me non è piaciuto. Non è piaciuto perché l'ho trovato un po' puerile, vabbè, rispetto alle cose più belle che ha scritto Jack London, ma soprattutto non mi è piaciuto, io l'ho letto dopo aver scritto questo romanzo, però ovviamente un romanzo non si finisce mai di scriverlo, ogni stesura lo rimastichi, alla fine secondo me i romanzi li pubblichi perché almeno ti liberi di questo fardello che continueresti a cambiare le virgole. Quindi ero ancora un poco impiastricciato nel libro. Ho letto I Vagabondi delle Stelle e non mi è piaciuta la presunzione, secondo me, di Jack London di due cose. Uno, di saltapicchiare da un tableau a un altro, nel senso è immaginifico il fatto che lui apra squarci di una scena ambientata in Cina, di una scena ambientata in Africa, così, però la scelta è completamente a cazzo. Invece a me è piaciuto fare il lavoro opposto, cioè in questo excursus che va dal 500 e torna ai giorni nostri per riagganciarsi alla trama iniziale, tutti i segmenti delle storie che ho scelto, tra quelle di fantasia, quelle leggendarie, quelle storiografiche, avevano bisogno di coincidere nelle date, nei luoghi, nei tempi esatti, anche se non sono dichiarati, perché al lettore non gliene frega un cazzo del lavoro filologico, a me sì, in modo tale che la maglia tenesse, cioè se qualcuno vuole metterla alla prova, magari lo strappa, però deve provare a vedere se funziona l'armatura di questo lavoro. Invece quello di Jack London, ovviamente io sono piccolo così e Jack London è grande così, però mi è sembrato veramente un colabrodo da questo punto di vista, in quel romanzo, le altre cose che ha scritto mi genufletto. E poi soprattutto quello che non mi è piaciuto è il fatto che lui faccia entrare l'anima di cui ci racconta le reincarnazioni solo all'interno di corpi umani, probabilmente caucasico-occidentali e prevalentemente maschili. C'è qualche donna, ma così, giusto per darle il contentino. E invece, all'insegna della democraticità del linguaggio, che è il linguaggio stesso, l'anima, no? Che entra dalla nostra bocca e non solo esce dalla nostra bocca, il linguaggio entra nelle nostre bocche e ci insuffla. Io voglio che la mia anima sia ovunque, senza veramente nessuna discriminazione, ma non per fare l'etico moralista del cazzo, ma perché io la vedo veramente ovunque. Postmodernismo, ovviamente qui, andando sotto il pavimento della vergogna, un libro che ho sentito, che il mio libro ha voluto un po' scimmiottarlo malissimo, è 2666 di Bolaño, che consiglio tantissimo. Secondo me le presentazioni dei libri servono solo per consigliare altri libri, perché il mio libro non è a quel livello. Ve lo consiglio, 2666 di Bolaño, un libro molto impegnativo, anche lungo, ma vale veramente il prezzo del biglietto, anzi ben di più, visto che i libri poi costano poco rispetto a quanto ci danno alla fine. Perché? Perché è un libro che parte dal noto e va verso l'ignoto, come diceva Novalis. Anche il mio libro lo fa, il mio libro parte da Milano, io sono nato a Milano, e parte da un bugigattolo alla fine, che sono i Navigli. Io sono nato sui Navigli, lavoro sui Navigli, vivo sui Navigli, sono un cazzo di gentrificato di merda e viaggio proprio per scrollarmi addosso questa cosa. Quindi va a cerchi concentrici, no? Il primo protagonista nasce e muore lì, la seconda protagonista nasce a Milano, poi vive questa svolta ambientalista, che non è una svolta che ha come impulso quello veramente di abbracciare la casa ambientalista, quello paradossalmente e comicamente viene come effetto, la sua vera spinta è quella di togliersi dalle palle, di uscire da quel barattolo nel quale è nata. E quindi cosa fa? Esce dalla città e si rende conto che letteralmente a un passo dalla città, cioè in Sardegna, prima parlavamo della Sardegna, c'è la natura selvaggia, che non è la Costa Smeralda che sta venendo, anzi è già stata rovinata, è l'entroterra sardo, che è l'Amazzonia dell'Italia. Io quando sono andato in Brasile, tutti i brasiliani non erano stati in Amazzonia, come coglioni, dietro l'angolo, è perché gli italiani sono stati in Sardegna, che è ancora più vicino, e che è veramente la nostra, il nostro far west. Quindi lei scopre questa cosa con questo piccolo passo, e il terzo protagonista invece appunto va veramente nel nuovo continente e con le sostanze psicotrope viaggia anche nel tempo, non solo nello spazio. 2666 di Bolaño, molto ma molto meglio di me, fa questa cosa. Le prime storie sono ambientate nel suo Messico e lui ci porta lì, e poi la terza parte è uno shock, perché vieni fiondato nella Germania di epoca nazista, durante la guerra, il protagonista è un tedesco, dici che minchia c'entra, alla fine c'entra tutto. Ma indipendentemente dal fatto che chi legge il romanzo capisce qual è il plot twist finale che dà coerenza narrativa a tutto l'impianto, cioè se anche questa cosa viene travisata, e né più né meno nel mio romanzo, se uno vuole mettersi lì a fare i conti della serva, io credo che tutto torni. C'è tutta una serie di personaggi nascosti che fanno le comparse, un po' come nel Truman Show, che uno passa per strada, sembra lo sconosciuto, invece è il fratello di quello lì, il cognato di quello là. Se uno vuole mettersi lì a fare proprio il grafema di tutte queste cose qua, tutte sono state studiate. Ma a me non mi importa che queste cose vengano viste, è un po' come ascoltare la musica da un vinile. Che sì, c'è, il vinile ha delle frequenze che i nuovi sistemi di amplificazione non danno all'orecchio e che arrotondano sempre di più la musica, ma questo non potremo mai saperlo, noi non cogliamo quelle frequenze, eppure il fatto che ci siano dà un'esperienza di ascolto, qui qualcuno lo sa molto bene, più vivida, e io vorrei veramente che succedesse questo a chi legge, che senza dover fare la fatica nella verificare, quindi è anche una questione di fiducia, di patto col lettore, che tutto veramente torni, si senta comodo di farsi questo viaggio sapendo che non si farà male, sapendo che proverà delle emozioni molto forti, come quando sei al cinema, che arrivano i colpi del Dolby Surround, ma tu sei sulla tua bella poltrona e te la puoi godere tranquillamente. Io questa esperienza l'ho vissuta grazie a Bolaño, grazie ad altri grandi autori, e tutte le volte che mi sono sentito scioccato ho tenuto in sospeso il mio senso di vendetta nei confronti dello scrittore, perché mi fidavo di lui. La prima volta che mi è successo non mi sono fidato dell'autore, ho sbagliato, perché ero piccolo e avevo iniziato a leggere Il segno dei quattro di Arthur Conan Doyle, che è un libro molto piccolo, ma che è diviso in due metà. Nella prima metà c'è il classico romanzo giallo con Sherlock Holmes e Watson che devono risolvere il caso di turno. A un certo punto questa storia viene interrotta, come cambiando canale, e la seconda parte porta in una storia di pionieri del Far West che non c'entra assolutamente una fava. E io ero piccolo e pensavo, mentre la leggevo, che l'editore avesse sbagliato a pubblicare il libro, che avesse messo la pera con la mela. E io ho detto, per fortuna che era corto, fosse stato lungo come quello di Bolaño, non avrei scoperto che avevo torto io. Per fortuna un romanzo corto, ho detto, beh, andiamo in fondo e poi alla fine chiedo i soldi indietro all'edicolante. E invece Arthur Conan Doyle mi ha fatto capire che mi devo solo fidare di lui, tutto era stato studiato. Ovviamente dopo tanti anni, quando ho preso in mano Bolaño, non ho voluto rifare lo stesso errore, Bolaño, ti posso fare altri esempi, e sono stato ripagato. E quindi veramente io spero che un po' succeda anche qua. Beh sì, come dicevo in apertura, i conti tornano effettivamente. Ma tornando brevemente a Jack London, invece Vagabondo delle Stelle, l'ho apprezzato tantissimo. È uno di quei libri di cui magari non condivido per nulla l'impostazione, diciamo così, metafisica, la faccenda della reincarnazione, così magari poi parleremo anche più nel dettaglio di questo, però a me è piaciuto tantissimo. E poi tra l'altro Jack London, come dici tu, è tante cose, tantissime cose, ma molto probabilmente non è un femminista, diciamo così, anche perché mi ricordo che all'inizio della sua autobiografia alcolica, John Barleycorn, c'era la diatriba sul voto alle donne, e lui era favorevole al voto alle donne con la motivazione che in questo modo avrebbero votato per il proibizionismo, cioè per proibire gli alcolici, perché le donne secondo lui sono più legate alla morale e quindi avrebbero vietato gli alcolici. Così. Perché lui fa la sua autobiografia alcolica, ma è contro l'alcol in generale, no? Perché davvero alcolista, era contro l'alcol in generale. Vabbè, ma al di là di questo ti vorrei fare due domande, poi magari passiamo la parola anche agli altri. Una, forse la domanda più odiata dagli scrittori, no? Anche quando la fanno a me, un po' mi girano le palle. Cioè, questo è un libro in cui si parla di tantissime cose, si raccontano tantissime cose, tanti personaggi così, ma ecco, cioè, se è vero che come diceva Proust, no, che ogni lettore quando legge è il lettore di se stesso, noi potremmo dire che ogni scrittore quando scrive è lo scrittore di se stesso. Ecco, tu dove sei in questo romanzo, se ci sei da qualche parte? Poi la seconda domanda è più una curiosità, diciamo così, perché io da vecchio materialista incallito, tutta la faccenda dell'anima, della reincarnazione, non mi appartiene completamente, diciamo così. Volevo sapere se per te era solo un espediente narrativo, perché nei romanzi uno può mettere di tutto indipendentemente da quello a cui crede da questo punto di vista, o se invece è una visione più radicata in te, diciamo così. Vabbè, in realtà ho blablato anche un po' troppo, quindi la faccio molto breve, perché se fate delle domande mi fa più piacere, se avete voglia di buttarvi un po' anche voi, se no basta così, perché è sufficiente. Quanto ci sono io, hai detto? Beh, sì, ma è un romanzo che cerca di scrollarsi di dosso io. Il primo protagonista è io con la I maiuscola, il secondo è un esperimento di scrivere per bocca di una donna con tutta l'analfabetismo che un maschio può avere di fare questa cosa, e ho provato a farlo, paradossalmente ho provato a farlo, il protagonista della seconda parte appunto è una ragazza madre di 25 gli altri maschi, come ho provato a scrivere da donna togliendo tutti gli altri maschi, quindi suo ex marito l'ho tolto, compare solo per rompere le palle e poi si toglie dalle palle, e così tutti gli altri, lei incrocia dei maschi, uso la parola maschi apposta, nei lavori che la aprono alla vita, ma poi sono tutte comparse, tutti passano e se ne devono andare, quindi cosa resta di quel polo lì? Lei è entrambi i poli, come tutte le persone, maschio che siano. Quindi l'unico modo per scrivere di una persona prima ancora di una donna è dargli tutti i poli, e letterariamente, come si può fare, non darli in mano ad altri personaggi, lasciarli tutti in mano a lei. E la terza persona invece perde il proprio nome, viene chiamato lo straniero, è alieno ovunque si muova, in paesi stranieri, in epoche che non sono la sua, in visioni a occhi chiusi. E lui scompare con l'aria, come dice Shakespeare, scompare con l'aria. Quindi non so se alcune persone scrivono davvero questo romanzo per trovare se stessi. Secondo me scrivere un romanzo serve proprio per togliersi un po' di torno, per mettersi dentro un carnevale in cui non si è se stessi. La sua domanda era? L'incarnazione. No, mi piace il fatto che tu dica che la materialista puoi provare a mettere alla prova questa cosa della incarnazione, perché io non ci vedo nessuna contraddizione tra il materialismo e il tema della reincarnazione, se mettiamo l'accento sul corpo. Sai il bisticcio linguistico tra metempsicosi e metempsomatosi, su cui adesso non stiamo tanto a dottrinare, però il gioco di parole del titolo che tu hai ricordato fin dall'inizio ammicca proprio a questo. Cioè io non ho parlato dell'anima, perché dell'anima che cazzo ci puoi parlare? Come direbbe Wittgenstein, su cui non si può avere certezza, bisogna tacere. E l'unico modo per tacere di cose di cui vogliamo parlare è di farlo in negativo, come la teoria negativa. Tutto ciò che Dio non è, perché se lo sono lasciato da parte. Allora io parlo del corpo. Così quando ho esaurito l'argomento corpo, non è che lo esauriamo in 500 pagine, ma ho esaurito la mia voglia di parlare dell'argomento corpo, evidentemente tutto quello che è rimasto a latere è l'anima. Do un'altra questione di lettura che mi ha illuminato, devo dire, ho rubato nel basso la grande decoro, di un grande antropologo brasiliano che si chiama Viveiros de Castro, che parla proprio di questo. Parla del fatto che il corpo è l'anima dell'anima e l'anima è il corpo del corpo. Cioè mi piace quasi immaginarla come un calzino double face, come se da qualche parte ci fosse un mondo parallelo in cui le nostre anime sono i corpi di cui l'anima è il nostro corpo in questo mondo. E lui dice che gli unici esseri che sono capaci di fare un salto da questo all'altro mondo sono gli sciamani, grazie anche alle sostanze, bla bla, picchettonagge, perché sono innanzitutto bilingui, sono capaci di parlare in entrambi i mondi, infatti con gli animali ci parlano senza problemi. E poi perché quando si adornano, non a caso spessissimo e volentieri con fattezze animali, lui dice quella non è una maschera, quella è la tuta di un viaggiatore dello spazio, perché stata quella lui può muoversi in territori dove non c'è l'ossigeno che respira lui e può andare dai viaggiatori. E il rapporto tra anima e corpo è del corpo, quindi solo può scappare, poi continuerà a scappare altrove, io posso seguirne la scia. E io la trovo molto materialista questa cosa per certi versi. Qual è il libro più bello che hai letto nell'ultimo anno, che ti è piaciuto di più? Nell'ultimo anno, da febbraio a febbraio. Oddio, quello è stato gennaio. Gennaio no. Arrivo, eh? Che cazzo ho letto? No, perché ti voglio dare una cosa... che vale proprio la pena. Quando eri giovane, quando eri adolescente, qual era il tuo libro preferito? Il tuo libro totem? No, neanche questa. Ma io, cioè, probabilmente uno dei motivi per cui non ho continuato a studiare filosofia è perché non ho un filosofo preferito. E un po' lo stesso vale per la letteratura. Io non ho uno scrittore preferito. Ho una tendenza alla venerazione molto sudditanea, quindi appena uno mi piace me lo sposerei. Però devo dire che ho avuto a lungo una grande scimmia per Musil, l'uomo senza qualità. Devo dire che per un certo periodo avrei voluto essere lui, adesso non vorrei essere lui, però in quel momento volevo tanto essere lui, quindi questo sì. Un libro breve. Sì, un altro. Oppure, vabbè, in realtà se uno non ci ha sbatti leggersi due volumi dell'Uomo senza qualità, il Torless, sempre di I tormenti del giovane Torless, sempre di Robert Musil, non lo so, parlava proprio di quel periodo lì della vita, devo dire. Il libro più bello che ho letto quest'anno. Che cazzo ho letto quest'anno? Aspetta, Io ho letto dei fumetti quest'anno. I fumetti? Per il prossimo episodio arrivato. Che cazzo ho letto di particolarmente bello? Ho letto tante cose belle, però te ne voglio dare una bella sugosa. Trick e track. Boh. Che cosa ti posso consigliare? Non lo so. Non lo so. Mi dispiace per quelli che non nomino. Lasciamolo in sospeso. Poi mai sentire. Altre domande? Prego. Tanto ci penso. Allora. Salve. No, allora, sebbene sia perso nei suoi meandri della sua testa a pensare al libro, e prima che io me ne vada in un posto che conosciamo, ho una domanda che non è tanto una domanda quanto più un discorso aperto, cioè, ed è sì, in forma di domanda da persona che crea a persona che crea, in un certo senso. E riguarda un po' l'ultima parte. Non è una domanda che vuole avere un target specifico, ma nel confrontarsi con un narratore che non ha corpo e consci del fatto che noi quando creiamo qualcosa e mettiamo qualcosa nel mondo, questo narratore che responsabilità ha nei confronti del mondo? È una bella domanda. Innanzitutto di costringere le persone ad andarlo a sentire durante le presentazioni. No, è veramente che è una cosa molto imbarazzante. Cioè, non che io mi senta in imbarazzo a fare le presentazioni, però mi sento un impostore, quello sì. Sì, invece sì. Ti posso dire questo. Così come similitudine ai massimi sistemi dell'universo, così come noi viviamo giorno per giorno dimenticando che in realtà moriremo, che se ce l'avessimo sempre sotto gli occhi non faremo niente. Mi ricordo una battuta dei Simpson geniale in cui c'era Homer che aveva bisogno di quegli slogan motivazionali, e uno di questi era: vivi come se fosse l'ultimo giorno della tua vita, che uno si immagina che adesso fa le cose pazze, e invece si metteva su un marciapiede, cioè, domani morirò, cazzo, cioè non faceva niente, si vedeva lì a deprimersi. Ovviamente noi invece siamo qua perché io adesso faccio finta che non morirò, e quindi ho fatto una cosa importante, che è una merda, diventerà polvere, tu diventerai polvere, io diventerò polvere. Quindi come evitiamo di struggerci nella disperazione? Facendo finta che non moriremo. La stessa identica cosa vale per creare qualsiasi cosa, perché il rapporto è lo stesso. Se io mi fermassi a pensare a quanti libri già esistono nel mondo e nella storia, a quanti libri vengono pubblicati ogni anno e a quante persone in questo preciso istante, nella loro cameretta o dove caspita si trovano, stanno scrivendo un libro migliore o peggiore del mio, io non farei più assolutamente niente. Motivo per cui a me non piace andare nelle librerie. In librerie mi gira la testa. Innanzitutto perché ci sono troppe robe che tengono il sguardo e sto male. E poi perché sì, ma allora basta, cioè, me ne vado a casa. Quindi, cioè, se mi fermo a pensare a che responsabilità ho come colui che immette nell'esserci una cosa che prima non c'era e che non gli è stata richiesta, smetterei ipso facto di farla e mi vergognerei di averla fatta. Proseguo però la domanda su questa cosa qua. Cioè, nel senso, questo qui è il tuo punto di vista in quanto creatore. Ma nel traslare questa cosa qua in un narratore che non ha un corpo, questo narratore, allora, che responsabilità ha? Cioè, nel senso, smaterializzare un narratore, cosa può generare? Beh, ma in realtà il narratore è sempre smaterializzato. I rapsodi erano ciechi per quello, nell'immaginario. Il narratore è sempre spersonalizzato, il narratore è lo sciamano. È lo sciamano che da fuori della boccia di vetro che agitiamo, quella dove c'è la neve dentro, che è il nostro mondo, racconta quello che vede. Ok? E che per non farsi distogliere dallo sguardo di ciò che vede veramente deve essere cieco, perché deve raccontare quello che vede da fuori. E il mio narratore è uguale, il mio narratore ha gli occhi chiusi durante un trip psichedelico, ma alla fine è il Tiresia della situazione, è l'Omero della situazione, che è cieco, è smaterializzato e grazie a questo fatto può scrivere. Cioè, in realtà la cosa più frustrante di scrivere i libri, adesso la lamentela da fortunato, che è di non essere presente nel momento in cui viene fruito quello che fai, che è la grande differenza rispetto al musicista. Il musicista, mentre suona, vede, come due amanti, se sta facendo godere o meno le persone a cui sta dando quello che ha dentro di sé. Lo scrittore no. E quando uno ti viene a dire che sei stato bravo, non potrai mai avere la prova se questo è vero o meno. Nessuno lo farà. E questo però è anche un privilegio, perché tu sei smaterializzato. Cioè, gli scrittori sono sempre smaterializzati. È per quello che non devono poi commettere il passo falso di mettersi in mezzo alle pagine. È ovvio che il punto di partenza è loro, il cliché è loro. Cioè, le chimere si fanno con assemblaggi di animali esistenti. Il primo animale da cui partire con questa Arlecchino, che è un romanzo, sei tu che l'hai fatto, tu sei il primo pezzo della tela variopinta. Alla fine il disegno non devi essere tu, perché se sei tu hai perso il privilegio di narrare. Puoi narrare solo smaterializzandoti. Quello che non... acceso e spento il microfono svariate volte. Ti ringrazio, Federico, di aver regalato questa cosa favolosa. Vabbè, tanto chi dovrà fare il podcast non è qui, quindi cazzi suoi. Ciao, lo salutiamo Lorenzo, grazie per quello che fai, però tranquillo, c'è problema. Va bene anche lo stesso, nel senso, va bene così. No, quello che io notavo è che mentre tu parlavi con Francesco di tutti questi dettagli rispetto al cosa significa narrarsi, anche prima quando rispondevi a Cateno, dove sei tu in questo romanzo, piuttosto di dove è il narratore, eccetera, cioè quello che mi pare di capire è che tu, sembra a me, che tu hai studiato tanto come si scrive, come si fa letteratura, il rapporto del narratore con chi legge, cosa significa il prodotto di una creazione personale. Quindi la domanda semplicemente era: quanti altri libri hai scritto, da quanto tempo è che ti occupi di questa cosa, come hai fatto ad arrivare a questo livello di preparazione che poi ti permette di fare delle narrazioni, cioè io non l'ho mai letto purtroppo, capita spesso quando, per esempio, anche quando presento io i libri che non l'ho letto davvero, questa è una cosa così per ridere, però questa veramente non era colpa mia, potevo non leggerlo, e quindi però volevo sapere da te, dato che sembra, da come lo presenti, a come ne hai parlato, che sia un progetto estremamente elaborato di chi conosce la materia, e chiederti come hai fatto a conoscere la materia, qual è il tuo percorso di studi di personale per arrivare qui a scrivere questo romanzo, che magari non è il primo, non sarà magari l'ultimo, però insomma, dove ti sei preparato per arrivare a questo livello di conoscenza di questo argomento così complesso che è la letteratura, lo scrivere? Ma in realtà, secondo me, non è molto interessante che cosa ho studiato io. Questo è il secondo romanzo che pubblico, e ne ho in cantiere un altro, ho scritto tante robe, però questo è l'unico insieme a un altro che ho pubblicato e basta. Non è per niente interessante secondo me quello che ho studiato, perché una delle belle cose della letteratura è che ci si può arrivare in mille modi. Cioè, mentre altre professioni, appunto, quindi forse non è una professione probabilmente, ha bisogno di un cursus honorum specifico, qui no. Poi, un conto è scrivere, un conto è riuscire a districarsi nel mondo editoriale. Quindi il mondo editoriale è un mondo con varie pieghe, all'interno delle quali si riesce a entrare in molti modi, che possono essere frequentare i corsi di scrittura creativa, farsi amico quello e quell'altro, andare alle Holden, tutte cazzate varie, più o meno utili, ma in definitiva per pubblicare un libro la cosa migliore è conoscere un editore, personalmente, e non perché te lo fa come favore, ma perché semplicemente ti prendi più in considerazione rispetto al mare magnum di scrittori che vanno dai beceri ai geni inesplorati e che rimarranno ignoti, che però non c'è spazio, purtroppo è così. Tolto questo, però veramente tutti possono scrivere, cioè ha scritto Emily Bronte, ecco un romanzo che ho letto da poco che mi mancava, ammetto la mia laguna, ci mette pensose, ma ancora di più quello di Charlotte Bronte, secondo me Janeiro è bellissimo. Donne che avevano cultura ma che non avevano minimamente studiato come si scrive un libro, all'epoca non esisteva neanche scuola a riguardo, e le leggi oggi e dici queste scrivono da Dio, sì no, proprio 10 lode, quindi tutti possono scrivere. Ci sono scrittori che sono balzati in altissimo per aver fatto i lavori di merda, lavare i cessi, cioè è bellissimo, questa roba è bellissima nella letteratura secondo me. Però nel mio caso, indipendentemente da università, micro università, libri letti, micro non letti, il punto fondamentale qual è stato? Che io ho sempre scritto per i cavoli miei. Mi devo ringraziare, in realtà io un po' l'ho dimenticata questa cosa, poi me la sono ricordata, devo ringraziare mio papà che quando ero molto piccolo mi ha regalato una macchina da scrivere stile Olivetti, e lì avevo scritto il mio primo raccontino giallo. Però io fino a pochi anni fa scrivevo delle cagate, cioè non che questa non la sia, però veramente le cose che non si possono leggere, finché io ho avuto la fortuna di incontrare un mio carissimo amico che anche lui è scrittore, ha pubblicato, il quale ha una virtù rarissima, che non è l'essere bravo a scrivere o ad aver letto o scritto tanti libri, ma è non avere peli sulla lingua. Cioè lui, senza mai né insultarmi né provocarmi né essere mai ruvido, però le cose che mi ha detto di quello che scrivevo sono state fondamentali. Io avrei potuto studiare per altri 100 anni a qualsiasi scuola di scrittura, non sarebbe servito assolutamente a niente. Io, quando ho incontrato lui, le serate che abbiamo trascorso io e lui a parlare di letteratura mi hanno rivoluzionato. Da quel momento in poi io i libri che ho letto li ho letti con uno scopo, cioè i libri che ho letto fino a quel momento li ho letti col piacere, per proprio piacere, che è una cosa bellissima. Da quel momento in poi il piacere è andato scemando, io non provo più quel piacere puro del leggere, ma mi va bene così. Ma ogni libro che ho letto ho rubato una piccola lezioncina, ma l'ho iniziata a fare perché qualcuno mi aveva fatto capire cosa non funzionava, o meglio che qualcosa non funzionava, non mi ha detto cosa non funzionava, mi ha detto che qualcosa non funzionava. E da quel momento in poi sono diventato sempre più inflessibile nei confronti di quello che scrivevo, ma quello è il rovescio della medaglia di scrivere, cioè che lo fai da solo, e quindi se non hai il coraggio di confrontarti con altre persone, di beccare le centre, non imparerai, cioè ti convincerai che quella tua cacchetta che puzza, che per te profuma, va bene così com'è. Errore in tutte le cose ovviamente, però i musicisti, se io suono con altri 4 e sbaglio una nota, mi dico a coglione, quello là non è un si bemolle, e invece se scrivo i lettori sono i primi, la mamma, la zia, la nonna, ti dicono bravo a papà, brava figliola, non impari un tubo, di avere la fortuna di incontrare qualcuno che dice, e tu ti devi vergognare. No, ti devi vergognare. Bella. Va bene, allora grazie a Federico per averci parlato del suo romanzo e anche di altro. Ci aggiorniamo, rinnoviamo l'appuntamento. Sì, il libro ovviamente si può acquistare, ce ne sono appunto delle copie un po' sparse in giro sul tavolo, per esempio. E basta, noi ci aggiorniamo per i prossimi appuntamenti. Martedì c'è l'ultima lezione di questo blocco di filosofia per chi vuol venire, con il professore Vittorio Morfino. Concluderemo il percorso sul genio maligno parlando di Kant, e poi le attività della e giovedì ci sarà la prima lezione di storia dell'economia di questo secondo semestre, perché già una prima parte è stata fatta nel primo semestre, che era più introduttiva. Questa andrà oltre, dal punto di vista storico appunto. Le attività dell'Università Popolare non si fermano, avremo altri incontri, altre occasioni di poter parlare di cose attinenti all'Università Popolare. Ebbene, rinnoviamo l'appuntamento, grazie a tutti per esserci stati. Chi si vuole fermare a mangiare è quasi pronta la pasta, diciamo, quasi pronta. Una decina di minuti. Grazie.